Mix 24 di Giovanni Minoli. La notizia in 3D. Fischia il vento e furia la bufera, scarpe rotte, pur bisogna andare a conquistare la rossa primavera, dove sorge il sol dell'avvenir. A conquistare la rossa primavera, dove sorge il sol dell'avvenir. Ogni contrario. Allora, Pippo Civati, è rimasto solo lei all'opposizione di Renzi? Beh, più o meno, ho visto che c'è anche Cosentino, per cui ci sono tutti adesso. Ah, tutti proprio. Senta, ieri con i 6 senatori che fanno riferimento in qualche modo a lei, vi siete trovati, avete deciso di presentare un promemoria, se ho letto bene, al presidente incaricato. Ecco, è un ramoscello d'ulivo il vostro oppure una provocazione? No, è tutto l'albero proprio, cioè noi crediamo che ci sia un problema politico gigantesco, prima di tutto perché stiamo rifacendo, come spesso capita al centro-sinistra italiano, un governo senza il consenso elettorale, e questo già per noi è un problema molto grosso. Il secondo problema è che alla fine rifacciamo un Letta bis interpretato da Matteo Renzi, insomma, che è una cosa che veramente non capisco, anche perché abbiamo detto che Letta e il suo governo non hanno funzionato, e poi alla fine ci ritroviamo in una situazione analoga con gli stessi soggetti. Ho visto un Alfano splendido ieri sera, contento. Beh, però bisogna finire le trattative prima di dire come vanno le cose. Senta, ma lei potrebbe cambiare idea sul governo a qualche condizione oppure no? No, a questo punto non mi pare proprio, perché ho chiesto che quantomeno si guardasse anche a sinistra, anche senza fischi al vento, insomma, si guardasse agli altri gruppi parlamentari. Non è stato fatto, è stata ribadita la stessa maggioranza sia nel voto in direzione nazionale del Partito Democratico sia nelle dichiarazioni di ieri dopo le consultazioni, e quindi io ho lo stesso imbarazzo dell'anno scorso, aumentato perché dal fatto che è il secondo. Che è il secondo, il postino suona sempre due volte, se lo ricorda quel film, e quindi la seconda volta è più dolorosa, è più definitiva, e poi mi auguravo che Renzi facesse quello che aveva promesso durante la campagna per le primarie, un rapporto diretto, chiaro, con l'elettorato, le elezioni al più presto, no? Senza, e tra l'altro lui diceva, tenendo su Letta, no? ci ricordiamo tutti di quello che si diceva allora. Certo. Quindi, capisci? Quindi non ci sono, quindi Civati, non ci sono, per essere semplici, non ci sono punti qualificanti che possono farvi cambiare idea del programma. Ormai solo i miracoli possono aiutarci, per vabbè, cui non lo so, non credo sinceramente, lo dico con dispiacere perché poi tutti mi rappresentano in questi giorni come quello che organizza complotti, ma in verità io sono un grande disagio, un grande imbarazzo verso gli elettori. Che quindi diciamo voto di fiducia no. Direi proprio sicuro, di no. In questo momento direi proprio di no. Allora, lei non ha votato Letta, non ha votato Renzi, ma chi vorrebbe allora come segretario? Beh, io ci ho anche provato, è andata male, però non è una ripicca la mia, non è l'idea che si debba bloccare qualcosa. Renzi può sbagliare benissimo da solo, ha trovato tanti alleati in Parlamento, ha una maggioranza al Senato larghissima a questo punto, per cui può fare quello che pensa. Mi pare che altre persone come Fabrizio Barca, al di là della finta telefonata, siano a disagio, e forse questo significa qualcosa, insomma, per chi ancora. Ma quella finta telefonata cosa ha rappresentato per lei? Qualcosa? Ma guardi, posso dirle che poi io ho sentito Barca, ma ero il vero Civati, non ero il finto Civati. Ah, sì. Subito dopo lui ha telefonato a me e ha detto le stesse cose, quindi insomma, davvero io penso che non ci siano retroscena. Ho visto che sulla rete sono impazziti tutti pensando che Barca, che è una persona autorevole, stimabilissima, abbia fatto tutto apposta. A me sembra veramente, ormai siamo un paese in cui la rete, però insomma anche la pubblica opinione dovrebbe considerare che le persone hanno una dignità, appunto, e a volte credono nelle cose, a volte, non sempre. Vabbè, capita. Senta, c'è Buttafuoco, vuole farle una domanda. Buongiorno, a proposito di quello che ha detto adesso, a proposito di Barca, quindi lei, giusto per semplificare, ritiene quindi con Barca che questo governo stia nascendo con la regia di De Benedetti? Ma guardi, questo non ho motivo per pensarlo. Posso dirle però che le altre affermazioni di Barca mi sembrano più rilevanti, mi sembra che sia un esperimento molto, qualcuno dice coraggioso, qualcuno dice azzardato, per me è molto rischioso anche dal punto di vista delle cose che potremmo fare. I piccoli spunti programmatici che il nuovo centrodestra ha declinato mi trovano molto lontano. Non so se nel Partito Democratico c'è ancora qualcuno che si ricorda che cosa avevamo promesso agli elettori e le nostre idee. Insomma. Mario, Mario, sì, c'è Mario Secchi, anche una domanda. Buongiorno Civatti. Buongiorno. Senta, allora, no Alfano, sì a Vendola. Quindi fate una sinistra Civatian Vendoliana, sì o no? Dai. In questo momento io vorrei che il Partito Democratico facesse il PD. Continuo a crederci fino all'ultimo minuto. Dopodiché, sa, il mio destino personale l'ho già detto, io posso anche smettere, non c'è nessun problema. Ho un rapporto molto laico con la politica e con le cose in cui credo. L'unica cosa che vorrei evitare è dovermi trovare in un Parlamento in cui ogni giorno mi trovo a votare cose che non condivido. Ecco, ma che senta, sono fatte Civatti, così così. Civatti, se smettesse cosa vorrebbe fare? Beh, io, sa, ho un culto di Giordano Bruno, studiavo quelle cose, torno a studiare, non c'è nessun problema. Posso approfittare? Posso approfittare? A proposito di Giordano Bruno, ma lei ritiene che Giordano Bruno sia il simbolo del laicismo o, come, dato che lei lo ha letto, un negromante? Ho una curiosità da filologo. No, è un grande filosofo Giordano Bruno, ma ci porterebbe lontano. No, senta. Più che altro vorrei, siccome sono vicino a Campo dei Fiori, vorrei evitare di finire nello stesso modo. Quindi negromante. Senta, piccole cose grandi. Senta, Nardella, Dario Nardella, sul Corriere di oggi dice: i poteri costituiti in realtà temono i leader PD, si sentono in pericolo perché rompe i rituali. Allora, insomma, c'è una bella differenza di lettura. Beh sì, Nardella però come farà Correnzi, insomma, non mi pare che ci siano soggettività politiche. Insomma, un barbaro, appunto, parla di Renzi come di un nuovo barbaro, lei è d'accordo? Sì, però il nuovo barbaro si è seduto con chi rappresenta il tardo impero, allora, insomma, quindi non capisco il messaggio. Ma seduto, non c'è, non ha fatto ancora. Bisogna vedere cosa capita dopo. No, ma no, noi siamo giornalisti. No, noi aspettiamo di vedere. Per ora io ho visto Alfano, Lorenzin, Lupi. Li ha visti molto contenti. Ho visto Franceschini che come barbaro, insomma, non mi viene molto forte come non immagine. Molto, no, non funziona. Insomma, ho visto quello li ha visti contenti. Va bene. Allora, lei dice andrà come con Letta. Stiamo a vedere, ci risentiremo di sicuro, perché intanto lei mi ha arruolato e quindi a presto. Va bene? È vero. Non lo dimentico. Arrivederci. Arrivederci. Ma come dobbiamo dirlo che non c'è più tempo? Siamo stufi di vedere sempre le stesse persone che ci propongono il nulla. Come dobbiamo spiegare che è a rischio la pace sociale, che è pericoloso lasciare famiglie e imprese sull'orlo della disperazione? Abbiamo difficoltà ad aprire ogni giorno il negozio per poter poi far fronte soltanto a pagare le tasse. Da due anni a questa parte c'è stato un grossissimo calo di consumi, mentre tutto quello che riguarda i costi si sono aumentati. Non ce la facciamo più, siamo arrivati alla frutta. Non siamo più tutelati da nessuno. Ho vergogna di non avere la possibilità di avere i miei figli assunti, dargli un lavoro dopo 33 anni. È giusto questo. Non possiamo continuare a fare imprese solo per fallire. Non abbiamo altre chance, abbiamo chiuso le nostre attività per venire a manifestare questo grido di rabbia e di ultima speranza. Come dobbiamo spiegare che è a rischio la pace sociale? 800 24 00 24 numero verde, 349 238 6666 l'SMS. Erano i lavoratori delle piccole e medie imprese che ieri in 60.000 hanno riempito Piazza del Popolo a Roma. Una manifestazione organizzata da Rete Impresa per denunciare per l'ennesima volta la crisi che li sta travolgendo. Nel 2013 hanno chiuso i battenti 1.000 imprese al giorno. Marco Venturi, presidente di turno di Rete Impresa, era lì. Carlo Sangalli, lo abbiamo sentito, ha parlato per ultimo, ha detto la pace sociale è a rischio. Anche lei vede a rischio la tenuta del tessuto sociale? La manifestazione è una risposta, una manifestazione corretta, con tantissimi imprenditori che hanno partecipato alla nostra iniziativa, però con estrema fermezza. Quindi io credo che ci vogliano delle risposte importanti, perché altrimenti l'insoddisfazione rischia di montare sempre di più. E ecco, quindi... ma lei la sente questa insoddisfazione che sta diventando rabbia e sta diventando rischio sociale? Beh sì, indubbiamente sì. Perché se no... quando gli imprenditori scendono in piazza come se fossero operai, è chiaro che è un segnale davvero potente. È un segnale potente, non scendiamo come operai, ovviamente. Ma ovvio, no, ma voglio dire, scendiamo con la, modalità certo, diventa quella. Certo, però scendiamo con le nostre ragioni, per cui chiediamo alla, in questo caso al futuro governo, al prossimo governo, di affrontare una serie di nodi come la riforma fiscale, per esempio, che è rimasta sempre in sospeso perché abbiamo un crescendo semmai di imposizione a livello nazionale e territoriale. Assolutamente. Quindi con un dove trovare le risorse, come ci dicono, tagliando certo. la spesa, sì, come diciamo da sempre. Sì, lo si dice ma non si fa. Esatto, bisogna semplificare. Ma perché non anche si fa? Perché non si fa? Perché non si fa, perché secondo lei? Perché per tagliare la spesa vuol dire soprattutto agire sull'intero sistema istituzionale, perché non è che basta tagliare un po' di sprecucci, di certo spesuccia. No. Bisogna, per non esempio, siamo più province, lì. Comunità montane, i microcomuni, ce n'è uno che fa 37 abitanti, tanto per capirci. Certo. E i vari consigli, le società di servizi, cioè noi dobbiamo agire sulla polpa. E il tempo a disposizione è finito, secondo voi. Esattamente, ma la manifestazione dice questo, adesso li vogliamo mettere alla prova. E quindi nella vostra agenda la priorità è il taglio della spesa pubblica. Il taglio della spesa pubblica e della riforma fiscale, perché devono essere attaccati questi due punti. Certo. La pubblica amministrazione in Italia paga le imprese in media dopo 140 giorni. E questo è un aspetto drammatico. 109 giorni in più rispetto alla media europea. È il peggior pagatore. Questo è il cuore del problema. Ma io ne aggiungo un altro. La burocrazia, quando parliamo di semplificazione, ci costa alle piccole e medie imprese 30 miliardi all'anno. Questo è assurdo. Ecco, ma i provvedimenti di semplificazione su questi 30 miliardi all'anno, per recuperarli, che cosa bisogna fare? Non possiamo mantenere una struttura, un apparato pubblico che serve fine a se stesso, poi alla fine. Che riproduce se stesso e mantiene se stesso. Esattamente, quindi questo è uno dei punti. Cioè, senza la riforma della pubblica amministrazione diventiamo un paese da terzo mondo, proprio. Cioè, siamo già abbastanza vicini. Sembra che non c'è più, non c'è internet, sembra che non ci sono tutti gli strumenti moderni, non c'è una semplificazione. Soprattutto non c'è la cultura dell'efficienza. Esattamente. Quindi questo è un altro dei temi dei grandi. Il credito, ecco, soprattutto. Il credit crunch, cioè il credito. In questa fase difficile. Mancanza di liquidità. In questa fase difficile, se le imprese non hanno possibilità di accesso al credito e noi come associazioni facciamo delle cose perché abbiamo la nostra rete dei Confidi che danno controgaranzie e facilitano, certo, quindi l'accesso aiutano le piccole e medie imprese. Però nonostante questo, in questa fase difficile, il credito è crollato. La mancanza di liquidità aumenta il rischio di infiltrazioni mafiose? Ma aumenta soprattutto l'usura. Appunto, lei ricorderà questo nostro famoso treno contro l'usura, esatto, che impose la nuova legge sull'usura. Però voglio dire, questo è una delle partite che, come si allenta, si chiude la borsa del credito e le imprese entrano in asfissia. Dopodiché che fanno? Chiudono, e io dico meglio che chiudono, certo, o si rivolgono agli usurai. Certo. Meglio chiudere prima, certo, e non si chiude dopo comunque. Senta, le faccio un'ultima domanda, Presidente. Se lei fosse Renzi, domani mattina che cosa farebbe? Una cosa che farebbe subito. Ma guardi, io subito metterei in pista la riforma fiscale. Perfino Prodi dice: sono sorpreso dalla mancata reazione sociale. Dobbiamo aver paura? Ma io spero che non dobbiamo arrivare a quello. Visto come il popolo delle partite IVA, le piccole e medie imprese hanno c'è reagito, voglia di fare, c'è voglia di fare. Sono venuti da tutta Italia, quindi con la fatica. Sì, ma con la voglia di fare, la rabbia, ma la voglia di fare. Vogliono risposte. Non è che vogliono fare la rivoluzione fino a se stessa, vogliono risposte. Ma con la voglia, con la loro voglia di costruire. Sì, quello, come l'abbiamo chiamato, è certo, il popolo del fare. Grazie Presidente, auguri. 800 24 0024, numero SMS 349 238 66 sei. Un territorio che è particolarmente colpito dalla crisi è il Piemonte. Gli imprenditori sono scesi in piazza con un flash mob. Dottoressa Mattioli, Licia Mattioli, che è il presidente dell'Unione Industriale di Torino. Ecco, voi avete il direttivo al Viale dell'Astronomia, la Confindustria, quello nel quale Letta sarebbe dovuto venire con la bisaccia piena, come aveva chiesto qui a Mix 24 il presidente di Confindustria Squinzi. Ecco, cosa vi aspettate di trovare nella bisaccia del nuovo presidente? Riforme, riforme, riforme. Quali? Mi dica, mi dica. Lavoro. Mi dica. Lavoro innanzitutto, cuneo fiscale in secondo luogo, semplificazione in terzo luogo e last but not least, come dicono gli americani, il discorso della certezza del diritto, perché sennò certo, non ne usciamo. Se no investimenti zero. Ecco, ma quando dice mercato del lavoro, mi dice esattamente cosa intende? Quando penso al mercato del lavoro, penso al mercato del lavoro libero e semplice. Per cui per me sarebbe bellissimo poter avere le assunzioni tutte a tempo indeterminato, ma con possibilità di sciogliere i contratti con un'indennità, però quindi con un mercato molto più semplice, sia in entrata che in uscita. Lei è il presidente dell'Unione Industriale di Torino. Torino voleva dire Fiat. La Fiat se n'è andata. Adesso gli imprenditori praticamente manifestano in piazza come gli operai. Ma è la disperazione o un nuovo modello di partecipazione alla soluzione dei problemi? Sa che cosa? Che, dunque, intanto io direi alcuni imprenditori manifestano in piazza. Sì, perché certo. Pensate piazza virtuale. Però sa qual è il problema? Il problema in questo paese oggi è farsi ascoltare. E forse per farsi ascoltare occorre convincere l'opinione pubblica, e forse è per questo che è cambiata la maniera di comunicare. Ah, senta, Torino, un'ultima domanda. Torino oggi è descritta come una città bellissima per come è stata ridipinta, però veramente a rischio di estinzione. Lei in che settore vede la rinascita possibile? Guardi, un manifatturiero molto alto in tecnologia e innovazione, secondo me ci sta tutto, così come molto alto in qualità per il Made in Italy. E questo è tutto un settore. Nella cultura, che c'è uno spazio grossissimo, Torino lo sa, sta diventando una capitale culturale europea, lo è sempre di più, e anche turistica. E qui ci può essere un altro sbocco. Nel food, che qui è fortissimo, certo, come territorio. Quindi possibilità ci di sono, ci sono varie direzioni. Il problema però è che si possa lavorare in questo paese. Questo è il vero deal. Grazie dottoressa. Grazie, grazie lei, presidente. Grazie, a presto. Arrivederci. Grazie. Antonio da Roma. Antonio? Pronto? Buongiorno. Niente, dica. Io posso solamente dire, io sono un agente di commercio, ho 48 anni e oggigiorno purtroppo avere una partita IVA vuol dire mese per mese, tante volte scegliere tra il fare la spesa e pagare le tasse. Una partita IVA non ha nessun diritto, non ha diritto a niente, è solo un precario che giorno per giorno cerca di andare avanti oggigiorno. Se non avessi mia moglie e mia figlia che dipendono da me, tante volte mi passano per la testa brutte idee, perché mi sento veramente una persona fallita. Tutto qua. Grazie. Beh, questa è la situazione reale. Anche perché di tantissime persone. Anche perché c'è stata tutta una stagione della politica affidata al popolo delle partite IVA, che invece a questo popolo ha dato soltanto la delusione e il tradimento, l'abbandono. Come abbiamo sentito. Tradimento vero. Se posso dire, c'è anche la retorica del fatto che bisogna, che si tratta spesso e volentieri il popolo appunto delle partite IVA, degli artigiani, degli autonomi come una specie di acervo di evasori. Assolutamente, sentiamo le storie, sono storie drammatiche. Bisogna anche stare molto attenti. Ecco, però io un'osservazione volevo fare prima della pubblicità. Abbiamo sentito questa protesta montante nella quale tutto sommato lavoratori e imprenditori oramai sono insieme nelle stesse forme, anche le stesse manifestazioni di protesta. Perché sai, se soffre l'impresa va male anche per il lavoratore, perché perde il posto di lavoro. No, ma in piazza insieme, insomma, in piazza insieme, quasi impressionante. È l'unica possibilità, l'alleanza appunto tra i cosiddetti ceti produttivi, no? altrimenti non si va da nessuna parte. Io penso che qua il sindacato abbia anche delle grandi responsabilità di non aver capito prima che non può esserci sempre questo dualismo tra l'impresa e l'operaio, diciamo, nella la divisione classica oggi. Certo, ha poco senso. I limiti di questa... È stato cancellato dai fatti. Certo. Tutto ciò. La partecipazione dei lavoratori agli utili dell'azienda si lega anche alla partecipazione di chi, creando l'impresa, partecipa nella creazione di quello che poi è lo sviluppo. È un destino comune. Ma se pensiamo che l'Italia ha dato un esempio, quale fu quello di Enrico Mattei, per andare proprio ai fondamentali, all'impegno nel mondo del lavoro. Oggi, ripeto, ancora una volta si paga il prezzo di un tradimento, di una stagione politica che coincide col berlusconismo nei confronti proprio di questo popolo. Aggiungere solo una cosa, in Mattei c'era una cosa che oggi manca, vediamo se Renzi è leader veramente in questo, e cioè la visione di una nazione. No, ma poi c'era una visione di questa nazione nella una strategia, in un ruolo internazionale preciso. Pietro da Roma fa una proposta per Renzi. Pagamento dei crediti alle imprese al 27 del mese e far aspettare 140 giorni di stipendi ai parlamentari. Demagogica, ma divertente. Sì, divertente. Mix 24. Sappiamo tutti che è un momento difficilissimo. Non è la prima volta che ve lo dico, però questo mese non vi posso pagare gli stipendi. Ma tu sei giusto, buono, ragazzi, giusto. Il problema è che Enrico c'ha le manone. Questa qua è una macchina delicata. Non ci provare che Enrico non c'entra niente. È il cemento che fa schifo. Te l'ho detto, non mi fanno più credito, mi mandano sta roba qua. Queste sono 350.000 euro. Io ne ho chiesti solo 100, sono in conto. Ah sì? Alla banca? Però ti hai chiesto 350.000. Certo che su di lei e i suoi colleghi sembra che sia caduta una specie di maledizione. Prima la morte del suo amico, adesso l'incendio. La polizia ha appurato che l'incendio era doloso. Se si era convinto, è andata alla polizia e denunciata. La crisi mette a dura prova la salute delle aziende. In alcuni casi però il problema non è solo quello. Il problema sono le mafie che acquistano le aziende penetrando nell'economia reale del paese e drogando poi ovviamente il mercato. Maurizio De Lucia è sostituto procuratore della direzione antimafia. Le mafie, ecco, non fanno più o non fanno solo usura e racket, ma acquistano direttamente le imprese. È un salto di qualità. Le mafie continuano a fare usura e racket. Sì, ma fanno anche... Perché ai delitti originari non si rinuncia. Però il denaro che hanno accumulato deve essere in qualche modo investito e quindi cercare di impadronirsi di imprese nate sane è uno degli obiettivi attuali del futuro delle organizzazioni criminali. La Camera di Commercio di Monza, Brianza, dice che la crisi favorisce le mafie e crea collusione. È vero? Ha sicuramente ragione. Crisi vuol dire soprattutto per le imprese mancanza di credito e mancanza di denaro. Il denaro ce l'hanno le organizzazioni mafiose e il bisogno stimola a cercarlo. Da un lato, dall'altro lato le organizzazioni mafiose non aspettano altro quindi, che poterlo offrire. Dottor De Lucia, sostanzialmente pur di non chiudere un imprenditore fa qualunque compromesso? Molto spesso non si rende neanche conto all'inizio del compromesso che sta stipulando, se ne accorge quando è troppo tardi. Nel nord d'Italia, dottor De Lucia, quali sono le zone più a rischio? Beh, quelle dove la crisi è maggiore, direi, quindi certamente una buona parte della Lombardia, ma non soltanto la Lombardia. Devo dire, le mafie guardano alle occasioni che si creano, ogni volta che si crea un'occasione loro cercano di esserci. Non fanno distinzione di territori. Assolutamente. Ecco. È alta la percentuale delle aziende che hanno collusione, mi può dare un numero? No. Un numero non glielo posso dare perché se avessimo i numeri avremmo anche indagini titoli, e processi, certo, naturalmente. Certo. Posso darle, come dire, delle sensazioni che vengono dalle indagini che sono tuttora in corso e dipende naturalmente dai settori. In alcuni settori il numero è più consistente, in altri lo è meno. Ecco, ma fino ad oggi, allora, non parlando del futuro, ma del passato, i numeri quali sono? Ce ne sono, diciamo? Eh beh sì, ce ne sono, ma anche qui, ripeto, per quello che abbiamo accertato e quindi la cosiddetta cifra chiara, ci sono delle evidenze. Ad esempio il settore del movimento terra in Lombardia è stato per un lungo periodo, fino a che la DDA di Milano non è intervenuta, pesantemente inquinato dall'Andrangheta. Sì. Su altri settori abbiamo, come dire, dei processi spia che ci dicono che le attenzioni del crimine organizzato sono attuali, sono presenti. Indicare un settore come più a rischio di altri in qualche misura è un errore. il movimento terra si caratterizza per imprese di dimensioni piccole, quindi più facili per essere, essere aggredite. Dove le dimensioni delle imprese sono più grandi, l'attenzione delle mafie si manifesta in maniera più sofisticata, attraverso intermediari, attraverso consulenti che apparentemente non sono mafiosi e quindi chiaramente sono anche certo, più difficili da scoprire. Certo, una catena più complessa da scoprire. Assolutamente ecco, sì. Dottor De Lucia, ma il governo Monti ha introdotto il rating di legalità per le imprese. È qualcosa che serve oppure è una bella speranza? No, secondo noi è una cosa che serve, anche se naturalmente deve essere testato perché è uno strumento, come dire, ancora poco praticato, ma la possibilità ma viene di poter... applicato, viene applicato? Ancora molto poco rispetto a quello che dovrebbe essere. Il PM di Milano, Paolo Storari, dice che sono gli imprenditori oggi che cercano l'aiuto dell''ndrangheta. Sì, in qualche modo ha ragione. Non è un rapporto di tipo estorsivo, un rapporto, come dire, vittima-carnefice. C'è proprio un bisogno di, appunto, di liquidità, soprattutto, che fa sì che si cerchi il socio criminale, magari nella speranza che questo socio sia, come dire, un viddano, per usare una parola siciliana, che in qualche modo si può gestire, ma poi si scopre che non è così. Dottor De Lucia, ancora una domanda, ma gli strumenti che avete per combattere questo tipo abbastanza nuovo di rapporto fra le imprese e le mafie, quali sono gli strumenti più efficaci che usate? Ma gli strumenti investigativi che abbiamo sono ancora i migliori che ci sono nel mondo, perché la nostra legislazione antimafia risale al lavoro di Giovanni Falcone e per fortuna è rimasta grosso modo inalterata. Servirebbero come sempre altre cose sul piano investigativo, io penso a strumenti di maggiore rapidità nell'individuare le segnalazioni bancarie sospette e soprattutto sul piano della prevenzione generale a una circolazione del denaro che sia sempre più virtuale e meno cash. Senta, un'ultimissima domanda alla quale la risposta forse è un po' obbligata, ma lei sente crescere intorno a lei, al vostro lavoro, un'atmosfera di consenso o un'atmosfera di scetticismo? Guardi, devo dire, un magistrato secondo me una cosa deve fare, cioè non curarsi di quello che cresce intorno a lui. Noi dobbiamo semplicemente applicare la legge e fare le indagini e trovare le prove. Poi dobbiamo anche segnalare che esistono una serie di fenomeni che hanno un impatto sociale, come certamente sono quelli che riguardano l'infiltrazione delle mafie. Ma onestamente, mi consente, problemi di consenso, di scetticismo non possono e non devono interessarci. Non possono, però poi aiuta il fatto se si sente supportati, no? Credo. No, soprattutto aiuta le vittime di questi fenomeni, certo, perché poi quello che manca è naturalmente la denuncia, che è tipico. Le mafie impongono il silenzio, l'omertà, la paura. Nel momento in cui noi abbiamo denunce di questi fenomeni, non solo sono più facili. E allora mettiamola in un altro modo: queste denunce crescono o no? Molto poco. Grazie, dottor De Lucia. Grazie a lei. La notizia in 3D naturalmente era stata curata, è stata curata da Sara Tardelli. E allora, Pietrangelo, questa canzone? Ho scelto oggi una star tedesca, musica tedesca. Sì. E in omaggio alla memoria della storia, la tratta ferroviaria Berlino-Baghdad, sangue turco ovviamente. Sì. Oh Mario, inutile che guardi, è il modo migliore per affrontare la primavera con Tarkan. Stati zitto adesso e ascolta questa musica. Io ho capito già tutto. Ma non ovviamente hai che niente. Cosa ma non hai capito niente. È una donzella medio orientale, è chiaro. Ma che cosa vai a capire? È il divano orientale occidentale. Qui c'è la grande tradizione dell'orientalismo. Vabbè, Mario, stare. Che cosa bolle in pentola oggi? Un sacco di cose. Sì. È fatta. Ci aveva di titolo sopra tutti i giornali. Ha soffiato a Castagnier Rumenighi, il grande ronzo canale. Ma che Rumenighi? Ma lei è sempre in arretrato. Come, non c'è più Rumenighi? Ma per carità, io miro in alto, molto più in alto. Canà! Indovini chi li ho preso? Chi? Ma? Ma? Mara? Mara, c'è mia moglie. Maradò. Maradona. Allora, era Oronzo Canà, il grande Lino Banfi, il calciomercato che è tradotto che cos'è in questo momento? Il Toto Ministri. Il Toto Ministri. Allora, resta... Vabbè, noi abbiamo il nostro candidato, la cultura, va la bene. Cultura. Pietrangelo, tu confermi la tua disponibilità, è disponibile, no? Io confermo la disponibilità in quota cattiverio, nel solco di Michele Amari, di Giovanni Gentile e Bottai. Vabbè. Okay. Insomma, il Toto Ministri che diciamo passando però... seriamente al 26 via 20 settembre, che dici tu? È un dilemma per il momento. E tutto dipende anche da quel ministero, cioè risolto, cioè trovare uno che dica sì a al no di Barca. No, vabbè, no, a parte gli scherzi, bisogna trovare uno che sia in sintonia assoluta con il Presidente del Consiglio e che sia autorevole, che ne conosca la materia, conosca il bilancio dello Stato e che vada in Europa a fare quello che bisogna fare. Però, scusate, a parte gli scherzi, va bene, ma abbiamo sentito prima Civati e Civati conferma quello che in aria scherzo Barca aveva detto. Vabbè, l'hai evocato. Allora, a proposito di Barca, a proposito di Barca, gli dedicherei questa canzone. Ma di quello che si dice, che sussurrano gli amici e che mormora la gente, non me ne importa niente, non me ne importa niente. Tutti vogliono parlare, tutti vogliono criticare, se il mondo va vicente, non me ne importa niente, non me ne importa. E perché lo hai evocato con questa canzone? Non si capisce. E perché appunto tra aria scherzo, aria seria, e poi spunta come un carciofo sempre l'ombra di Barca e l'unica risposta è non ce ne importa niente. Vabbè, dai. È stato serio Barca, io trovo che è stato serio. Minoli. Ma vi posso affidare alla lettura del meraviglioso pezzo di Giuliano Ferrara oggi in Barca? L'attacco è meraviglioso. Fabrizio Barca è il numero 279 della nomenclatura. Ha parlato quei numeri 8 e 9 della cerchia di Renzi. Oh mio Dio, io se fossi fuoco con voi veramente arderei lo mondo. Se fosse fuoco arderei il mondo, se fosse vento lo tempesterei, se fosse acqua io l'annegherei, se fosse Dio manderella in profondo. Allora, vabbè, il grandissimo De André, Cecco Angiolieri, perché ho evocato questo scherzo poetico? Perché di fuoco intorno al mondo ce n'è parecchio, e lo segnaliamo in Ucraina, avete visto che cosa sta succedendo, in Thailandia e in Venezuela, diciamo sono tre hotspot in questo momento. Il mainstream del politicamente corretto dice che la piazza ha sempre ragione. Io offro solo un umile spunto di riflessione per dire attenti, perché ricordatevi anche come sono andate a finire le rivoluzioni arabe, le cosiddette primavere. Certo. Finisce sempre che tu vai in piazza, ghigliottini e poi anche ce il ghigliottinatore ghigliottina più di te. Ricordate Danton e Robespierre. Io non posso abbandonare chi mi ha seguito, no? Ti ritieni al di sopra del governo. Ogni individuo eccezionale è al di sopra della massa. Disprezzo i comitati almeno quanto te, solo che io lo dico. Perché vuoi che ci dividano, Maximiliano? Perché? Nessun comitato, nessun governo può farlo. Perché divisi cadremo tutte e due. Se vai avanti col terrore non potrò più seguirti. E non potrà farlo nessuno. E il popolo che ci ha portato fin qui distruggerà la rivoluzione. Danton, film meraviglioso, ovviamente, con un grandissimo Gérard Depardieu, se non sbaglio, Tri Amigos. Allora, i Tri Amigos sono i tre amici così definiti perché c'è un summit, così si dice, tra il presidente del Canada, il presidente degli Stati Uniti e quello del Messico. E perché, caro Buttafuoco, smettila? No, perché quando parli d'inglese sembri Severgnini. No, per carità! Però non hai quella specie Severgnini, di calotta. Severgnini alla frangetta, si può fare i bigodini. Vabbè, anzi, tu sei alla radio. Scrive con i bigodini. Io mamma mia, mai. Mai e poi mai. Continua perché si vedono perché no, guai, eh? Perché si vedono i tre amigos? Perché devono discutere di una cosa molto importante. Il progetto Keystone è un oleodotto gigantesco, valore 5.4 miliardi di dollari, molto contestato, diciamo, in alcuni punti dove passerà, però tutte le valutazioni fatte anche dal governo americano finora dicono che se può fa, e quindi vedremo un po' cosa succede. Do la parola ai salamini, a Johnny. Ah, cosa potrei fare di salamini, tanti, tanti salamini dopo la lettura dell'editoriale di Barbara Spinelli oggi sulla Repubblica, un violento attacco a Matteo Renzi in nome di questa... Vabbè, insomma, sapete chi ha combinato la Spinelli, che proprio mi tocca nel cuore, chi è Barbara Spinelli? Barbara Spinelli, giornalista di Repubblica, eh? La editoriale, giornalista, è poco, è poco, è un nume, è un editorialista, insomma, è un'autorità. Allora ha scritto cosa questo. Avrebbe detto? Allora mi ha toccato nel profondo, perché ad aiutare i suoi argomenti ha evocato lo sceno fuori scena di Carmelo Bene, e lei ha fatto tutta questa cosa contro Renzi in difesa della democrazia, nel nome della democrazia. Sì. Allora, andando ai fondamentali, io dedico a Barbara Spinelli questa chiara definizione della democrazia data dal grande Carmelo Bene. Prego. Cosa garantisce la democrazia che una dittatura non possa garantire? Certo, garantisce qualcosa, ma lo sapete qual è? Garantisce la invivibilità della vita. Non risolve la vita. Chi sceglie la democrazia, chi sceglie la libertà, sceglie il deserto. Se la democrazia fosse mai libertà. La democrazia non è niente, è mera demagogia. Canzoniere e poi viabilità. Canzoniere, facilissimo, facile, facile, facile, ancora una volta un grande libro, è stato anche innumere volte film ed è stato anche fumetto e tutto, perfino parodia Walt Disney. Vado alla lettura. Quando il Signore Iddio, e so bene perché, dal giardino ci cacciò nel profondo inferno, là dove bruciava e divampava il gran fuoco centrale, tra quella illuminazione troppo viva ci trovammo pigiati nella maniera più incomoda. Mix 24. Sono le 9:47, 57 secondi. Il professor Giorgio Simonelli, oggi è una sua grande giornata, perché immagino che ieri sera il canone per lei fosse a Sanremo. Sì, buongiorno, però, professore. Sentite un po' cosa vi ho preparato. No. Faccia cantare gli orfani, le vedove che piangono, e quelli che dimostrano, lasciamoli cantare. Facciamo cantare gli esuli. E allora, professore? E allora, che cos'è questa cosa? Ah, qui c'è Buttafuoco, che lo sa. Si è buttafuochizzato pure Simonelli. Sì. È la fine. Ognuno è la fa il suo gioco. Sai come si dice? Chi va con lo zoppo? Impara a cantare. sono versi di un premio Nobel, mica... Accidenti. Allora, nel 1962, Dario Fo era il conduttore di Canzonissima e questa era la sigla. E allora che cosa succedeva? Che anche Dario Fo, che conduceva Canzonissima, prendeva un po' le distanze dalle canzonette, diceva facciamo cantare gli esuli, le vedove che piangono, insomma era la vecchia idea, come dire, francofortese della canzonetta come arma di distrazione di massa. Sì. Vabbè, ma arriviamo a Sanremo. E invece adesso che cosa è successo? Che Sanremo non è più l'insieme delle canzonette. È uno spettacolo televisivo, diciamo. È il luogo invece dove si giocano i destini politici, culturali, sociali. Certo. Cosa abbiamo visto ieri sera? Fatti a un certo punto ha dovuto dire, beh sì, va tutto bene, però insomma, io leggo la lettera dei... Vabbè, ma avevamo già visto Baudo quella scena, era già capitata a Sanremo con Pippo Baudo, identica, credo sullo stesso, erano sullo stesso luogo. Ma l'hanno fatto per neutralizzare Grillo. Ma è la stessa cosa, dai, hanno raddoppiato, con Baudo era uno, ma adesso sono due. Intanto alle 23:15 Marco da Bologna dice: c'era la musica. C'era Cat Stevens, quello, Yusuf Islam. È stato... Ma il vero problema di Sanremo e del canone è un po' questo. Che cos'è Sanremo? È ancora un luogo dove corrono le canzonette, o è un luogo dove è uno spettacolo televisivo, ora tutto insieme, è una sintesi. Detto questo, insomma, devo dire che ieri il canone era Sanremo, però perché c'era Cat Stevens si poteva fare meglio. La prima serata di Sanremo mi ha lasciato un po'. Io ho il gruppo d'ascolto personale, che ha già stilato la classifica della prima giornata del gruppo d'ascolto. Dice che primo Gualazzi, secondo Frankie Energy e terzo pari merito De André e Le Perturbazioni. Continuano anche oggi, domani e dopo, fino alla fine. Senta, a proposito di canone, noi abbiamo, la cito spesso oggi, Dario Nardella, che dice che la RAI merita una rivoluzione, la politica deve occuparsene, non per cambiare qualche direttore, ma per stabilire in modo chiaro quale servizio pubblico radiotelevisivo si deve fare. Vede che la nostra discussione su dove il canone e come bisogna ripensarlo è simile, giustissimo. Qui è molto simile a quello che ha detto Grillo. Vogliamo sentire cosa ha detto Grillo ieri? Oggi la RAI è la maggiore responsabile del disastro economico, politico e sociale di questo paese. Sono venuto a dimostrare questo perché è un SPA dove... Violento, forse esagerato, però anche lui ha voluto entrare nella discussione su quale sarà il futuro della RAI. Professore? Allora, io da mesi, forse da anni, quasi divento noioso, sostengo una cosa: tutti dicono che bisogna togliere la politica dalla RAI, bisogna togliere la RAI dalle mani dei politici, nessuno ci dice in che mani dobbiamo metterla, perché qualcuno dovrà gestire la RAI. Allora, qualcuno ma è demagogico che... dire quello, il problema è chi si sceglie. No, non è demagogico, perché è demagogico dire che bisogna allontanare quello sto dicendo esattamente quello. State dicendo la stessa cosa, per una volta io e Minoli eravamo d'accordo. Siamo d'accordo, mamma mia. Sono abituato a essere in disaccordo. È grave, come facciamo? Senta, voglio dargli una notizia anch'io, che insomma, non so, mia nonna diceva chi si loda si imbroda, però noi abbiamo avuto un risultato straordinario di cui voglio ringraziare gli ascoltatori, perché la radio ha fatto più 9% di ascolti e più 14-15% di pubblicità. E quindi lì dentro Mix 24 ha avuto un gran successo e io ringrazio molto gli ascoltatori e tutte le persone che collaborano a farlo. Chi si loda si imbroda, però ci voleva. Però grazie. Lo faccio grazie. Io, complimenti. Complimenti, complimenti. A noi. A Giovanni. Vada professore, tocca anche lei un po' di complimenti. Ieri però, insomma, torniamo a Sanremo come spettacolo e vi manifesto le mie perplessità. Secondo me c'è un errore di impostazione, perché tutto viene giocato sul amorevole e simpatico conflitto Fazio-Littizzetto. Ma qui c'è l'errore, secondo me, perché se Sanremo è un evento non può usare la stessa chiave interpretativa di messa sono d'accordo che certo, si questo vede è molto le domeniche giusto, certo. Questo è un po' il limite di questa cosa. Sì, la prima volta era una sorpresa, oggi è ripetere la stessa cosa. Tutto questo ha inficiato un po' anche la presenza degli ospiti, perché fu fatto questo gioco con la Carrà, è stato fatto questo gioco con Letizia Castà, dove però, e qui bisogna dirlo, un piccolo capolavoro c'era, ed era Silvano di Iannacci, cantato da Castà e Fazio. Quello è stato l'unico momento della serata di vera grande sorpresa. Poi, se posso dire una cosa che non è nel mio ramo, come si dice, mi spiace per l'eliminazione della canzone di Cristiano De André. È passata la canzone, come ha detto, però è piaciuta. È passata la più sanremese e la meno di qualità. questo è un po' un peccato, però insomma questo fa parte di Sanremo, fa parte un po' della storia di Sanremo, della tradizione di Sanremo. Grazie professore. Avevi ancora una bolla, Mario? Sì, senti qua, l'olandese volante. Perché intanto mi sembra che non abbiamo risposte, nessuno indovina. Però è facile, se ne è occupato anche Mario Secchi di questo libro. Sì, purtroppo. Senti qua. Chi è questo, Pietrangelo? Chi è? Riccardo. Riccardino, eh? Riccardo Wagner, l'olandese volante. Perché? Perché associ, ragazzi, ci sono risultati belli da leggere sul medagliere. Geopolitica. L'Olanda è in testa alla classifica con 20 medaglie. Clamoroso. Clamoroso, perché di queste 20 medaglie già conquistate, tu sai quanti partecipanti ha l'Olanda? 41. Hanno un record impressionante. Ne avevano previste 12, ne hanno già conquistate 20. È un fenomeno assoluto. Vi do un metro di paragone veloce. Gli Stati Uniti hanno 230 partecipanti e hanno le stesse medaglie dell'Olanda in questo momento. 20. Quindi grandi olandesi volanti. Cambia il mondo. Intanto abbiamo qualche risposta per il nostro canzoniere. Niente, allora io chiedo a Pietrangelo di svelarci l'arcano. No, io lo manterrei. Lo domani? Anche perché vorrei dire che chi indovina avrà da noi un regalo nell'edizione Feltrinelli di quello che ho letto prima. Va bene. Oh, e poi è facile, è facile. Vabbè, sei un diavoletto, dai. Sperando che non ce lo vuoi dire. Sperando che qualcuno risponda almeno domani. Io vi ricordo che a cura di Marina Milone, dopo il giornale radio, avremo la storia dedicata a Oreste Lionello, e a ricordarlo ci sarà anche la figlia Alessia.